modo di esistere per assopire un certo dolore in nuove gioie, verità come chimere, fiele omogeneo del veleno del sapere, fino ad arrivare all'antidoto per le loro croci. Purtroppo sto coltivando il male tra le mie radici. Scopro pianeti mobili di pensiero, sostanze come ieri fanno pioggia e apro il mio crino al mondo a costo di sostenere polvere. Sere che con essa affondo in fondo nel dolore che poi diventa ali, sostituendo il sangue maturato in voli, rasi come nuvole vette di soli che faccio miei e m'appartengono nuovi, assaporando nella pece il sapore da cui giungono. Cerco sempre nuove ali ai miei voli incerti, soluzione male di troppi sogni irti, di troppi sogni irti. Rimango immobile, assumo il profumo del mondo che come travaglio interiore, come fumo sul mio crino e fiori di sapore strano, tondo al suo sensore, colore in profumo di ogni mio sapere. Sembra spontaneo modificare l'interiorità del mio pensiero e dire che cerco sempre nuove ali ai miei voli incerti, soluzioni e mali di troppi sogni irti, di troppi sogni irti. Alle volte rimango solo cercando il senso del centro, quel senso in me del dono totale che ho dato ed ora sembra svanito, vorace visione del sole nero che risucchiò l'immenso del grande mistero che in me portavo, del bianco dono dal mondo, con esso amavo troppo, sono andato a fondo, il doppio, la luce era diventata il mio occhio. Cerco sempre nuove ali ai miei voli incerti, soluzioni ai mali di troppi sogni irti. Cerco un incerto modo d'esistere per assopire un certo dolore, nuove gioie, verità come chimere, fiele omogeneo del veleno del sapere, fino ad arrivare all'antidoto per le loro croci. Purtroppo sto coltivando il male tra le mie radici. Sempre nuove ali ai miei nuovi voli incerti, soluzioni ai mali di troppi sogni. Nell'aria scopro pianeti mobili di pensiero, sostanze come ieri fanno piogge e apro il mio crino al mondo a costo di sostenere polvere. Cerco sempre nuove ali. Nuove ali.